Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. There's no time for us. There's no place for us. Questo è uno sport bellissimo, un po' malvagio nella sua dinamica, perché ovviamente in altri sport se sei a un passo dalla medaglia, magari quell'adrenalina in più ti fa fare lo scatto al traguardo. Qui purtroppo è tutto il contrario. È un tutt'uno con la sua arma, Niccolò Campriani, per questo tiro che può essere decisivo. Carabina a 10 metri, non la sua specialità, lo abbiamo ricordato, è la 3 metri, l'arma da fuoco, ma qui ha vinto l'argento a Londra. 9.8, vediamo, 9.8 di Kulish, vediamo, non è male, vediamo. Non è male. Niccolò è andato male, 10.7, oro! È oro! Oro Niccolò! È oro, è lì! Oro è lì. Niccolò è Campriani! Andata. Grande Niccolò! Tre ori e un argento olimpico. Che campione straordinario che oggi viene a farci visita a Olimpia, perché ma è un campione, Niccolò Campriani, che fra poco busserà alle porte della città dello sport, che davvero non solo ha cambiato il palmarès olimpico del tiro a segno italiano, ma anche un certo modo di approcciare lo sport, perché veramente i confini dello sport per Campriani sembrano davvero sempre troppo stretti. È un campione che ha sempre qualcosa in più e di diverso da dire. Vero Stefano Tirelli, professore di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano e quest'anno, lo sapete, mio compagno di viaggio qui a Olimpia? Sì, innanzitutto buonasera a te Dario e a tutti gli ascoltatori. Sì, sono convinto che Campriani sia uno di quegli atleti che io definisco evoluti, quelli che hanno una consapevolezza di vivere un'esperienza meravigliosa durante una fase della vita di sport, ma anche di essere all'interno del contesto della vita e quindi dare attenzione alla stessa vita. E poi realizzare un piccolo miracolo, che è quello, una volta ogni 4 anni, di trasformarci tutti in appassionati di tiro a volo, tiro a segno, no? Sono due grandi bacini di medaglie olimpiche per la spedizione azzurra di solito, e in quei giorni veramente li seguiamo come fossero i Maradona e i Pelé, i campioni del nostro calcio, eh? Sì, sì, mai come in quei giorni siamo tutti degli esperti, oltre che al bar rispetto al calcio anche di fucili, di mirini, di bersagli. E allora, bando alle nostre chiacchiere, diamo subito spazio al nostro ospite Niccolò Campriani, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Ciao a tutti, buonasera. Niccolò, sembra ieri, ed è passato in realtà poco più di un anno da quando ti abbiamo lasciato, stremato ma vittorioso, con i 2 ori di Rio 2016. E ora ti ritroviamo a lavorare a Losanna presso il Comitato Olimpico Internazionale. Spiegaci cosa è successo. Sembra ieri, però sì, sono successe di cose questi ultimi mesi. Ora sì, sono in questo nuovo ruolo al CIO, ho iniziato ai primi di settembre, diciamo che dopo le Olimpiadi di Rio, dopo aver posato la carabina, l'ultimo colpo a tutti gli effetti è quello che avete visto tutti quanti nella finale olimpica. Io non ho più tirato il grilletto da quella volta. Ecco, dopo aver posato la carabina e dopo essermi congedato dal gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ho fatto quello che fanno tutti i comuni mortali, ovvero ho iniziato a cercarmi un lavoro, e quindi colloqui di lavoro a destra e a sinistra. È stata un'esperienza e alla fine c'è stata questa opportunità col CIO che si è concretizzata d'estate, e ho iniziato nel ruolo di coordinatore della doppia carriera e transizione post carriera, quindi si tratta di servizi per gli atleti, però fuori, se vogliamo, dalla palestra, fuori dalla piscina, fuori dal polimero di tiro, si tratta un po' di supportare gli atleti in quella che è la loro vita. Scelta non comune da parte di un atleta, quella di lasciare all'apice di carriera e notorietà per mettersi a cercare lavoro. Ovviamente ho fatto una scelta coraggiosa, che era quella di lasciare il gruppo sportivo delle fiamme gialle e quindi rinunciare un po' al posto fisso. Sono rimasto ovviamente in ottimi rapporti con loro, ma sono sempre stato chiaro fin dall'inizio che sarebbe stata una parentesi la mia, quella dentro il gruppo sportivo militare, e poi avevo studiato per fare l'ingegnere. Alla fine sono capacità da project manager, però basate su quella che è la mia esperienza della dual career. Quindi io sono stato studente atleta per la gran parte della mia carriera sportiva, ed è quello un po' che sto cercando di condividere, la mia esperienza, i bisogni che avevo, le difficoltà, le sfide che ho dovuto affrontare. Sensazioni, Nicolò? Io credo che sia una bella doccia di umiltà per tutti. Alla fine, magari la medaglia d'oro ti aiuta quantomeno a organizzare il colloquio, poi però come è giusto che sia, lo ribadisco, uno se la deve giocare su quelle che sono le proprie capacità, non su quello che ha vinto in un contesto sportivo. Ovviamente si sviluppano tutta una serie di capacità da atleta di elite, però non può essere solo quello. E quindi sono stato rimbalzato tante volte, non è che poi alla fine ho scelto tra più offerte, ma i primi colloqui di lavoro, diciamo che venendo da due medaglie d'oro alle Olimpiadi, dove la gente intorno a te ti reputa chissà cosa, è forse una doccia di umiltà necessaria da fare, quindi è stata una buona esperienza. Non è la prima volta del resto che fai questa scelta, hai lavorato anche in Ferrari se non sbaglio. Sì, esatto, torna un po' lì. Allora, la parte migliore di tutta la mia carriera la identifico sicuramente tra il 2009 e il 2013, ed incredibilmente era la parte in cui ero più impegnato su altri fronti. Ogni volta che mi sono dedicato più allo sport è andata male. È andata male nello sport, però in primis è andata male per quella che era la mia soddisfazione. In pratica, buttandomi a capofitto in una cosa, in pratica uccidevo la passione per quella cosa, in questo caso lo sport. Per me è un po' come una relazione sentimentale, no? Devi mantenere quella giusta distanza, né troppo vicino né troppo lontano, e per fare ciò bisogna trovare innanzitutto un equilibrio. Dopo il 2013 ho finito la specialistica, ero un tiratore a tempo pieno, le cose stavano iniziando a andare veramente male, e allora ho cercato un lavoro part time, l'ho trovato in questa collaborazione con Ferrari, e lì ho ripreso un po' di ossigeno e in qualche modo sono arrivato a Rio. Poi quello che è successo a Rio, le due medaglie d'oro non riflettono assolutamente l'andamento del quadriennio, è stato un quadriennio molto difficile per me, ed è sorprendente perché io ero sicuro che passando da 3-4 ore di allenamento a 6-8-10 sarei migliorato. In realtà è stato un boomerang. Sei quindi un atleta che rende meglio quando non è totalmente assorbito dalla propria attività. Sì, ma guarda, io rigiro la domanda, chi non lo è? Cioè, io alla fine quello che ho vissuto io col mio sport credo che l'abbiano vissuto un po' tutti quelli che a un certo punto si ritrovano un po' sperduti nel fare una professione, oppure si ritrovano anni e anni addentrati in una relazione sentimentale e si rendono conto che la passione rischia di non esserci. Nel senso che alla fine dedicarsi totalmente in una cosa non vuol dire per forza farla bene, anzi, prima di tutto si tratta veramente di ricreare un equilibrio, stare bene, ecco, uno non dovrebbe, non è che vinci la medaglia alle Olimpiadi e stai contento, uno dovrebbe essere contento e quindi si mette in condizioni di potenzialmente poi fare bene alle Olimpiadi, però tutto nasce forse dicendo che cos'è l'obiettivo vero e che cos'è una conseguenza di questo obiettivo. Per me la medaglia d'oro è una conseguenza di un cammino, è una conseguenza di una scelta di vita, non è un vero obiettivo. E allora è bello trovare un campione come Nicolò Campriani in un momento così particolare, no? Della sua carriera e della sua vita, in cui tanto è importante quello che ha fatto nel passato, pure recentissimo, ma altrettanto significativo è, professor Tirelli, quello che sta costruendo per il suo futuro. Sta rinascendo. È un atleta che ha già vissuto in questo momento quello che è il livello di differenza tra essere all'apice e avere intorno a sé tante persone e in qualche modo uscire dalla scena e ritrovarsi in una vita, tra virgolette, normale. E lì arriva il momento di guardare in faccia la realtà. È quello che sta facendo Niccolò Campriani. Allora prendiamoci intanto qualche istante di pausa, poi vi aspettiamo ancora insieme qui a Olimpia. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. Tutto si riduce dopo 44 colpi a quest'ultimo sofferto colpo. Kameski avanti di 1-0-6 sul nostro Niccolò. Una finale che ha meritato, che ha condotto dall'inizio alla fine. Grande Niccolò Campriani, il più grande di tutti, campione olimpico con merito, è stato straordinario. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. Ben ritrovati a Olimpia, la città dello sport. Il nostro ospite oggi Niccolò Campriani, il grande campione. Tre ori e un argento alle Olimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016 nel tiro a segno. Niccolò, sei, come dicevamo, in un momento di passaggio della tua vita. Hai momentaneamente riposto la carabina e stai lavorando al CIO, proprio in un programma di sostegno agli atleti che concludono, stanno concludendo la carriera agonistica. Ecco, fammi un po' scherzare, non è che non vuoi più sparare per non sporcare il tuo palmarès tanto prestigioso? Sì, oddio, guarda, c'è poco da sporcare perché l'ultimo anno è stato il 9-2, quindi non è stato un gran colpo, eh? Lì avevo sporcato abbastanza. Diciamo che avevo deciso di smettere prima delle Olimpiadi di Rio e quindi volevo essere, ecco, coerente con la mia decisione verso me stesso. Quello che mi manca sono quelle 3-4 ore che passavo con me stesso. Quello mi manca, devo dire, perché alla fine sono 3-4 ore. Il tiro a segno è veramente su ascoltare se stesso, ascoltare i propri pensieri, ascoltare il proprio respiro. Era una cartina tornasole. Io credo che nella vita di tutti i giorni possiamo far finta di stare bene. La cosa bella del mio sport è che non potevi mentire. Il bersaglio ti diceva se facevi finta di star bene o stavi veramente bene. Ed era un test utile, eh? Era un feedback immediato. E la cosa che più mi manca è quella. Sapevo se un allenamento, se una gara è andata bene o è andata male. Qui mi ritrovo a fare il lavoro di tutti i giorni e mi ritrovo ad andare avanti per settimane e non riesco a capire se sto vincendo o sto perdendo, perché questa mancanza di feedback della vita reale è forse uno degli aspetti più paurosi di una carriera di atleti che fanno quel salto. Ma quando ci si rende conto che è arrivato il momento di dire basta? Credo che alla fine uno deve maturare questo cambiamento nei mesi successivi, a volte ci vogliono anche anni. Un giorno te ne accorgi. Io credo che di essermi ritrovato qua al CIO, quello che faccio è incredibile, quello che faccio non è altro che leggere tutte le difficoltà che gli atleti affrontano a fine carriera, e in pratica è una checklist per me, no? Mancanza di feedback, ce l'ho, sensazione di solitudine, ce l'ho. È un po' come, non lo so, se un alcolista anonimo si ritrova a fare il barman. Quindi io sto vivendo su di me questo processo, però lo vedo che è veramente un po' di attualità, è un discorso forse a volte sottovalutato. Si può sicuramente fare molto di più in supporto agli atleti. Ma senti che ti rivedremo mai in pedana? Non sto facendo finta, nel senso che sto veramente provando cosa vuol dire una vita senza il tiro a segno, ed è un qualcosa che è una risposta che devo trovare in questi mesi, perché l'ho fatto da quando avevo 13 anni, quindi ho sempre fatto qualcosa insieme al tiro, ma di fatto una vita senza il tiro non so come possa essere, quindi ci sto provando davvero, sto provando a mettermi il mio sport alle spalle. Un domani non lo so che cosa può succedere, però di fatto, ecco, l'idea è quella di non avere la parte migliore della mia vita nei giorni passati, ma di avere un crescendo. Quindi io spero di trovare un nuovo equilibrio, io spero di star bene, spero di trovare nuove emozioni, spero di trovare scariche di adrenalina magari in altre situazioni. Se non lo dovessi trovare, tornerò al tiro. Però ci sto provando sul serio, a fare questo passaggio, anche perché in questo momento almeno è una mia decisione, non è che me lo sta dicendo qualcuno, non è che semplicemente perché le gare vanno male devo passare ad altro, in questo momento almeno sono in controllo e quindi credo che sia giusto farlo adesso. Io credo che uno dei grandi temi da affrontare prima o poi è aiutare gli atleti a individuare il giusto momento per interrompere la propria carriera, perché sono troppe veramente le storie di ragazzi che smettono ma non lo sanno, poi ritornano e poi si ritrovano a 40 anni e dopo è difficile reinventarsi, più in là si va. Quindi io sto cercando di fare tutto questo a 30 anni e non è facile, ma ci stiamo provando. E allora, qualunque sia la tua scelta, Niccolò Campriani, un grande in bocca al lupo e grazie per le emozioni che ci hai regalato anche stasera e per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille a voi, grazie, buona serata. Stefano Tirelli, abbiamo sentito Niccolò Campriani proprio nel guado di questa sua carriera, di questa sua vita, no? Grandissimo campione, palmarès straordinario a livello olimpico e mondiale e ora impegnato nel definire il suo futuro ma anche e soprattutto il suo presente. Tante cose mi hanno colpito delle sue parole, a partire dal fatto che Campriani rientra in quella generazione, in quel gruppo di atleti che se si concentra solamente sul suo sport, ecco lì che i risultati non arrivano. Non è un particolare da poco, no? Perché anche a livello di mental coaching, quando ti trovi, immagino, con un atleta di questo tipo, devi essere bravo a costruire tutto il contorno, perché non è un campione che si risolve solo nel gesto tecnico, nel momento dell'allenamento, ma chiede e vuole innanzitutto da se stesso di più, no, professore? Sì, anche perché il livello di ansia è quello fisiologico e utile, è molto creativo in termini sportivi atletici, quindi quando ci sono proprio atleti e persone che sono predisposte a concentrarsi su un solo elemento, quindi sulla performance, sulla finale, sulla partita decisiva, ci sono invece altri atleti che hanno un eclettismo naturale che non si può diciamo in qualche modo snaturare, proprio è una capacità di molti di poter far fronte a diverse tipologie di impegni e gli stessi impegni permettono poi all'atleta di subire molto meno l'ansia. Ecco, da questo punto di vista voi mental coach come lavorate, quali possono essere le strategie? Io personalmente cerco di dare sempre all'atleta che ho di fronte lo spunto per una consapevolezza rispetto alla totalità della vita. Essere consapevoli che quello che si sta vivendo è un piccolo frame di un film che è pieno di tante altre cose, di famiglia, di amicizie, di lavoro, di prospettive. E questo tende proprio a dare all'atleta una maggiore consapevolezza e maggiore felicità rispetto a quello che sta facendo. Eh sì, insomma, se ci aggiungiamo una mostra, un cinema e le tante ore d'allenamento, spesso non è tempo perso, ma è qualità guadagnata, no? Anzi, io ricordo di un atleta di poco tempo fa, proprio, che è un giocatore di calcio che e in qualche modo era talmente sotto pressione che addirittura il pensiero di dover andare magari al cinema o mangiarsi una pizza magari in compagnia di amici o di una compagna poteva essere in qualche modo distraente rispetto agli obiettivi. Lì bisogna ovviamente cercare di aiutarli e di riportare tutto a una realtà che possa essere maggiormente godibile. Altro tasto centrale di quello che ci diceva Niccolò è la preparazione al dopo carriera, no? Da questo punto di vista come si può lavorare e come soprattutto si può aiutare l'atleta ad immaginarsi qualcos'altro rispetto a quello che è stato fino al giorno prima? Di solito ci sono due situazioni che ci si presenta. Una è quando l'atleta sa che è a fine carriera e allora dobbiamo prepararlo, aiutarlo a comprendere che le qualità, le doti atletiche, mentali, non sono più quelle di prima e dobbiamo aiutarlo a trovare una collocazione diversa. Altro caso è quando d'improvviso un atleta si trova a dover interrompere la propria attività. Ad esempio mi è capitato nel 2008 in Ghana, c'era la Coppa d'Africa e proprio il capitano del Ghana, allora era Steven Appiah, ebbe un mese prima dell'inizio del torneo la notizia che ormai, diciamo, la sua carriera in qualche modo era stata compromessa da una trombosi e quindi chiaramente c'era un pericolo di vita. Quando il medico, io ero lì con lui alla clinica di Istanbul, gli disse che per almeno 6 mesi avrebbe dovuto fermarsi e in qualche modo avrebbe dovuto lasciare, allontanare tutti quei sogni di capitano e di vincere una Coppa d'Africa, ebbe un crollo. E lì la prima cosa che decidemmo rispetto alle sue passioni, al suo modo di vivere il calcio, l'amore per la sua nazione, fu quella di definirlo comunque capitano in panchina. Così come accadde per esempio con Beckham quando facemmo i mondiali nel 2010 in Sudafrica e lui si ruppe un tendine d'Achille poco prima del mondiale, ma era il capitano in panchina. E poi dopo la Coppa d'Africa dovete decidere quale fosse la sua migliore collocazione. Il calcio era la sua vita, il calcio era la sua passione unica, quindi si indirizzò al tutto per un apporto della sua esperienza, della sua capacità e competenza in ambito di Federazione Calcio Ghanese. Insomma, c'è un lavoro a fianco di questi atleti in questo momento delicatissimo di passaggio delle loro carriere e delle loro vite. Allora, seguiremo sicuramente con affetto e partecipazione Niccolò Campriani, qualsiasi sia la sua scelta per il futuro. Intanto il nostro futuro, professor Tirelli, è a brevissimo raggio perché domenica prossima l'aspetto ancora una volta qui a Olimpia, ospite come sempre, mia spalla e compagno di viaggio per le vie della città dello sport. Sì, grazie, sempre un enorme piacere e mi raccomando, grande forza mentale sempre per tutti. Alla prossima, grazie. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.